Davide insegna lettere e storia in un liceo di Novara. Mi ha tenuto una piccola lezione sul bisogno di combattere, su come ognuno di noi abbia un lato battagliero che viene sublimato in diversi modi. Sul lavoro, allo stadio, con lo sport, giocando alla PlayStation, litigando con la moglie. Poi mi ha guardato e mi ha detto: tutti noi abbiamo una battaglia personale. Qual è la tua? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 8 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Non è abile chi prevede una vittoria che chiunque potrebbe conseguire. Vincere in una battaglia universalmente considerata difficile non è vera abilità. Allo stesso modo in cui staccare un capello che cade in autunno non significa avere molta forza. Riuscire a vedere il sole o la luna non significa avere una vista acuta. Riuscire a sentire il tuono non significa avere un udito fine. La vera abilità consiste nel vincere chi si può battere facilmente. Così le battaglie degli esperti si risolvono senza vittorie straordinarie, senza acquisire grande fama derivante dalla propria saggezza e dal proprio coraggio. Siamo partiti altissimi oggi, ragazzi. Sono le 16.09 e abbiamo aperto con questo brano dell'Arte della Guerra di Sun Tzu, che non è uno, pare, ma sono tanti, dicono. Questo è un testo che è stato scritto 3 secoli prima della nascita di Cristo, quindi si parla di tanti anni fa. È un libro che parla, che è stato scritto proprio da dei filosofi o dei generali, boh, non si è capito molto bene, per raccontare come si debba affrontare una guerra, però come tutti i manuali fatti bene racconta molto di più. Per quale motivo oggi apro parlando dell'arte della guerra? A parte che è bellissimo, lo leggerai tu, cioè farai tutta la puntata a leggere solo questo. E così si vincerà senza alcun dubbio. Con questa base poi tra l'altro è perfetto. E senza alcun dubbio le proprie azioni porteranno alla vittoria, poiché si vince chi è già sconfitto. Ogni tanto non lo capisco, ammetto. Cioè, cosa vuol dire si vince chi è già sconfitto? Vabbè, ma non è importante. L'importante è che sia uno dei testi cardine della letteratura mondiale. Perché parliamo dell'arte della guerra oggi? Perché questo fine settimana ho fatto questo chiacchiere con questo amico che non vedevo da una vita. Non so se vi ricordavate, venerdì si parlava del fatto di incontrare vecchi amici che appartengono quasi a un'altra epoca. Ecco, Davide è una di quelle persone. Davide appunto insegna lettere, storia e anche filosofia in un liceo. E ci siamo trovati in una situazione abbastanza particolare che vi racconterò più tardi. E ci siamo messi a parlare proprio di guerre, di battaglia, di come gestire delle situazioni di conflitto e soprattutto di come ognuno di noi di fatto abbia una piccola guerra e una piccola battaglia da portare avanti. E questa sua domanda che mi ha posto mi ha fatto poi riflettere tutto il tempo: qual è la tua battaglia? 800240024 349-238-6666. Io ce l'ho una battaglia da combattere e la sto combattendo in maniera anche abbastanza evidente, quella che ha a che fare con la verità e col dirla sempre, che non è per niente facile. E poi vi racconterò anche per quale motivo ogni tanto questa convinzione, questa battaglia, ho paura di perderla. Però sono convinto che chiunque stia ascoltando in questo momento, se si prende 5 secondi e si ferma da quello che sta facendo e prova a pensare qual è la sua battaglia, qual è la battaglia che sta combattendo. Alcune magari sono molto evidenti, no? Ci sono persone, per esempio, proprio in questo fine settimana ho incontrato un ragazzo che sono anni che cerca di dare spazio e aprire un'associazione culturale in un piccolo paese della provincia di Novara. Lui dice: è tosta, ma sto continuando a combatterla, prima o poi ce la farò. Ma ci sono mille modi per combattere una battaglia e per sublimare quel desiderio di guerra che ognuno di noi ha, no? Lasciando stare le cose semplici che avvengono facendo sport, andando allo stadio. Un ascoltatore prima mi ha scritto un messaggio su Facebook in cui mi diceva che lui ha una sorta di piccola battaglia, è un agricoltore lui ha una piccola battaglia col suo agricoltore di rimpettaio, perché ogni volta che escono col trattore e cominciano ad arare i campi si crea una specie di agri-GP, così lo definiva. Se però avete, che so io, state cercando di scavare un pozzo in Africa, se dovete raggiungere il Monte Rosa, avete anche voi una piccola battaglia che state portando avanti da poco, da tanto tempo, raccontatemela. 800240024 oppure 349-238-6666. Far scavare un pozzo in Africa, ne parlavamo prima con Tiziano. Cos'è? Marrakesh Express loro vanno per far scavare un pozzo in Africa. Ma l'attore che sta là, che loro vanno da un amico, giusto, che è lì che sta facendo scavare un pozzo, quell'attore lì come si chiama? Perché non è Batantuono che va, non è Giuseppe Cederna, è un attore alto, grosso. 349 3492386666 se qualcuno se lo ricorda. È un attore napoletano, mi pare, non mi viene il nome. So che è grande e grosso e non ha più fatto film con Salvatore. Sarà lì che faceva l'amico... Vabbè, insomma, 3492386666 se vi viene in mente il nome di quell'attore lì. 800240024 invece per raccontarmi qual è la vostra battaglia personale, qualsiasi essa sia, anche se è una battaglia con il vostro datore di lavoro, perché volete una promozione, perché volete un aumento, perché volete andarmene. Oggi è il giorno, è il momento giusto per raccontare qual è la battaglia che state combattendo. 800240024. Questo invece è quello che è accaduto questo fine settimana. E così venerdì ho fatto quello che gran parte delle persone che frequentano questa città fa il venerdì sera. Me ne sono andato. Uscendo da Milano il venerdì sembra di assistere ad una fuga. Ho preso l'autobus che va da Milano a Torino lungo l'autostrada. E mica peraltro si chiama autostradale, infatti. Sull'autobus ti sembra di assistere al traffico da una posizione privilegiata. Perché sei in alto e vedi le persone sulle auto sotto di te. E sono tutti da soli sulle auto alle 7 di sera. Cioè le macchine con più di una persona a bordo sono rarissime. Saranno una ogni 8. Questo non per fare un ragionamento di inquinamento, per parlare di carpooling, quelle robe lì che sinceramente non so nemmeno come siano. Per il semplice fatto che le persone da sole in coda si sentono libere di fare un po' quello che gli pare. Come se non avessero tutto intorno a loro altre persone separate solo da finestrini e parabrezza. E le persone da sole, che pensano di non essere osservate, fanno come se fossero veramente da sole. C'è una signora con la Smart che si controlla le sopracciglia sullo specchietto del parasole. Ha in mano una pinzetta e se le sta proprio sistemando. Forse ha un appuntamento. Forse le piace solo avere le sopracciglia sempre a posto, anche in auto. C'è un signore sulla cinquantina, su un Audi Station Wagon grigia metallizzata. Ha lo sguardo fisso di fronte a sé. Sembra non pensare a niente. O forse sta cercando di farlo. Come se ci fosse una cosa che non riesce a togliersi dalla testa. Non tocca mai la leva del cambio, quindi è una macchina automatica. Deve essere uno che viaggia tanto. O forse no, forse è uno che viaggia tanto ma sempre sulla stessa strada. C'è un ragazzo su un furgone. Ha le mani spesse e sporche di bianco. Sbadiglia con insistenza. Non è noia, no, è proprio stanco. Si passa la mano tra i capelli. Lui non sembra preoccupato, sembra solo stravolto. Sulla fiancata del furgone c'è scritto impiantistica, idraulica, civile e industriale. C'è un altro tizio su un'auto sportiva corta e bassa. Sta parlando al cellulare, gesticola con la mano libera, disegnando dei cerchi in aria con una certa sufficienza. Non ha la faccia simpatica. O almeno non ha il tipo di faccia che a me sta simpatica. Camicia bianca, orologione al polso, capelli all'indietro. Ha una fede al dito. E già mi dispiace per sua moglie. Poi c'è un'auto piccola, giapponese. E finalmente sono in due in macchina. Anzi no, in tre. Marito, moglie e la figlia, sul seggiolino posteriore. Lui è biondo, lei anche, e la figlia pure. Sembrano svedesi. E mentre penso che sembrano svedesi, realizzo che li conosco. Sono degli amici di amici. Quelle persone che incontri ad una cena, magari a due, con cui può addirittura capitare che ci vai in vacanza, una volta, perché dividete la casa con il gruppo di amici. Persone che non hanno niente da condividere con te, se non per il fatto che mangiano, dormono, hanno un lavoro e qualche interesse sparso, per cose che a te invece non interessano per nulla. E guardarli così dall'altro, mentre stanno andando non so dove con la loro piccola auto giapponese, mi fa pensare che alla fine sono proprio come me. Che me ne sto da solo, un po' più in alto, sul sedile di un autobus. Sono bloccato nel traffico con loro e vado chissà dove portandomi con me quello che ho vissuto oggi e quello che spero che accadrà domani. Poi la coda si risolve, le macchine cominciano a scorrere e anche il mio autobus riparte. E in mezz'ora sono all'uscita di Novara Est e c'è mia sorella che mi sta aspettando al casello, perché domani c'è la castagnata. La castagnata di sabato ha riservato una sorpresa. Sabato la giornata non era un granché. Faceva anche un po' freddo, ma non troppo, e quindi stare all'aperto era ancora piacevole. Al pranzo c'erano una ventina di persone, tutte del mio paese, anche se non le conosco tutte. Gente con cui avevo giocato a calcio tipo a 16 anni, ex compagni delle elementari, la prima fidanzata, a cui avevo strappato la tuta giocando a Cellai nell'atrio della scuola, che adesso ha due figli di 5-7 anni. Il che significa tra l'altro che li ha fatti a 28 e a 30, che non è poi nemmeno così presto, considerato che i figli si fanno pure a 20, no? Vabbè, comunque. Insomma, tra gli altri poi c'era Davide. Anche lui è sposato, ha un bambino, anche se il figlio non c'era perché era via con la mamma. Abbiamo apparecchiato una lunga tavola all'aperto e poi ci siamo messi a mangiare. Risotto con le castagne, arrosto con le castagne, formaggio con dentro qualche castagna, poi marron glacé e caldarroste. E quando ho sentito il menù mi sono ricordato che a me le castagne non piacciono. Però le castagne erano dappertutto e quindi ho fatto quello che si fa in questi casi. Ho mangiato poco e masticato molto. Davide era lì senza moglie né figlio, ma con Tito, il suo cane. Tito è un cane da caccia, per l'esattezza è un bracco italiano. Lui dice che l'ha voluto sua moglie, Monica, quando l'anno scorso un bracco aveva vinto il concorso come cane più bello del mondo. Poi ha fatto un sorriso un po' tirato e ha aggiunto che, nonostante tutto, è un ottimo cane. E ha ragione. Tito sembra il cane che pensi quando pensi ad un cane, con le orecchie lunghe, le guance cadenti e gli occhi intelligenti. Il bracco italiano è un segugio, quindi ha bisogno di muoversi tanto. È stato buono vicino a Davide per tutto il pranzo. Ma appena gli ha detto andiamo a fare un giro, lui è schizzato in piedi, con la coda che girava a mille e la bocca spalancata. Io avevo voglia di seguirli e quindi siamo andati per campi e per i boschi. Tito correvano usando e inseguendo qualsiasi cosa 200 metri davanti a noi. Io e Davide chiacchieravamo del più e del meno, senza dirci nulla veramente. Finché a un certo punto abbiamo sentito un colpo. Non uno sparo, ma qualcosa di simile. Ci siamo girati verso una fila di alberi e abbiamo visto 5 o 6 persone vestite con delle tute mimetiche e delle maschere da sci che tenevano in mano dei fucili. Io per un attimo non ci ho capito niente. Poi Davide ha detto che probabilmente eravamo finiti nel perimetro del centro di soft air di Gagliate. Io ancora non avevo capito cosa fosse, ma quello che avevo capito è che questi avevano in mano delle armi e sparavano. Davide ha richiamato il cane, ci siamo seduti dietro al muro di una casetta diroccata, mentre tra gli alberi imperversava questa piccola battaglia. Mi ha spiegato che è un gioco e che ci sono due squadre che si sparano dei proiettili di vernice colorata. Ce ne stavamo al riparo di questa piccola battaglia e ci siamo messi a parlare di guerra. Davide insegna lettere e storia in un liceo di Novara. Mi ha tenuto una piccola lezione sul bisogno di combattere, su come ognuno di noi abbia un lato battagliero che viene sublimato al lavoro, allo stadio, con lo sport, giocando alla PlayStation oppure litigando con la moglie. E poi mi ha guardato e mi ha detto: vedi, alla fine tutti noi abbiamo una piccola battaglia personale. Qual è la tua? .0024 0024 349 238 6666. Allora, mi dicono Rudy. Rudy è il nome del personaggio, ma il nome dell'attore, Giobbe Covatta. Sì, Giobbe Covatta, ma no, è un attore. Massimo Venturiello, là. Oh, ma me l'avete scritto voi, no? Massimo Venturiello, ha fatto anche La terra di Sergio Rubini, Pippo da Milano, bravo. Beh, una fatta di roba Massimo Venturiello, ha fatto un, insomma, è un attore di teatro fondamentalmente. Ciao Matteo, la mia battaglia è combattere la noia della vita nella sua quotidianità insopportabile. Lo so, Massimo, ha voglia, chi lo dici? Andiamo avanti. Alfredo è il nome della mia leucemia, ci parlo ma non gli sventolerò mai la bandiera bianca. Mauro, molto bene, la mia battaglia è nell'educare i miei figli. Tutte le mattine mi sveglio e combatto per non tradire la mia compagna. Ogni giorno vinco, ma è una battaglia estenuante. Magari faccio una riflessione. Magari invece devi lasciar vincere lei. La mia piccola grande battaglia per ora è sui libri. Voglio diventare medico. Alex da Torino. Insomma, ce n'è di battaglie. E poi c'è un film, in particolar modo, che parla di battaglia, giusto? Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola, si combatte solo due per volta. Quinta regola, un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola, niente camicia, niente scarpe. Settima regola, i combattimenti durano per tutto il tempo necessario. Certo. Ottava ed ultima regola. Se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere. Vabbè, insomma, qua se le davano proprio di santa ragione, però non è proprio quella, sono le uniche battaglie da combattere. 800 24 0024 oppure 349 238 6666, visto che ne abbiamo il tempo prima della borsa, perché siamo tutti qua ad aspettare che cosa accadrà alla borsa oggi, vorrei riuscire a fare in tempo a prendere una telefonata. Andiamo a Barbara di Milano. Pronto, Barbara? Pronto, ciao, eccomi qua. Ciao, hai già fatto tutto tu, sei qua. Sì. Perché mi sono fatta la domanda e ho fatto una riflessione su quello che hai detto tu venerdì, per cui la mia battaglia è lottare contro chi occupa dei posti di potere o sa che è più forte di altri, mm-hmm. e fa male ai deboli e rende i deboli, gli toglie quello che ha l'orgoglio e la dignità perché sanno che hanno bisogno. Ammazza, e io mi Barbara. Trovo nella stessa situazione perché ho un direttore che fuma ed è 2 anni che subisco questa cosa e nessuno mi ascolta e lui sa che ha questo potere e non si fa altro. Allora aspetta, fammi capire, tu stai parlando che stai facendo una lotta contro uno che fuma in ufficio. Esatto. Detta proprio male. Che lavoro fai tu, Barbara? Io lavoro in un ufficio, in un centro commerciale. E lui è il capo? Sì. E quindi diciamo già c'è questo problema, ma non c'è nessun altro che cerca di... No, ci ho provato, però probabilmente la situazione va bene così. È questo che mi fa dispiacere, il fatto che non fermino chi abusa di posti dove invece dovrebbe fare altro, invece che approfittarsi proprio perché è seduto lì. Quindi, senti, quando è cominciata sta battaglia, Barbara? L'ho cominciata 2 anni fa e sono ancora in battaglia. Te credo. Quante ne fuma al giorno? Un pacchettino e mezzo. E tutte in ufficio? E tutte in ufficio con porta chiusa. Io oggi ho aperto la porta e lui me l'ha richiusa. Ma senti, sai che vale ad esempio fare una telefonata all'ASL, ad esempio? Sì, però il problema è che... È che siete in due, siete tu e lui, quindi se qualcuno chiama l'ASL non può essere lui. Ma ti ricordi quando tu hai descritto quel bambino nei confronti di Davide venerdì? Sì. Ecco, mi ha colpito perché questo bambino ci vedevo la cattiveria e di dire tu potresti rimanere senza un posto di lavoro piuttosto che altro, e tante volte noi siamo deboli e questa cosa ci rende fragili. Ho capito, guarda, ti posso dire che quando facevo il liceo avevo una insegnante che fumava in classe, si parla di tanti tanti anni fa, e il figlio una volta le infilò un piccolo petardo nella sigaretta. Bellissimo. Barbara, buona giornata, adesso sentiti la borsa, mille, la borsa, okay. E torniamo dopo. Ciao, grazie. Va bene, ciao, ciao, ciao. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in un ufficio. È un ufficio pieno di ripiani, stracolmi di faldoni, di raccoglitori. Credo quindi che sia un ufficio in cui si ha a che fare con la contabilità e con i numeri. Ovviamente, come in tutti gli uffici, al centro della scrivania e al centro della foto c'è un computer, il monitor di un computer. Intorno è pieno di carte, pieno di block notice, però non sono block notice qualunque, perché sono i block notice quelli, sì, infatti c'è roba della Buffetti, quindi quella roba prestampata, ricevute, deve essere qualcosa a che fare con o il commercialista o, come mio padre, il consulente del lavoro, insomma persone che hanno a che fare con numeri, che hanno a che fare con soldi, che hanno a che fare con mesi, giorni di lavoro. Ci sono post-it dappertutto. E poi al centro dello schermo c'è il profilo Facebook del programma. Matteo Caccia, io sono qui. Questo vuol dire due cose: che la persona che ha scattato la foto stava lavorando, la prima. La seconda è che mentre stava lavorando, non stava lavorando. Alessandra Pagani, 46 anni. Io sono qui buona parte della settimana. Una postazione di lavoro a contatto con il mondo. Io sono qui. Adesso il mio secondo scalino dopo i campionati italiani assoluti sono gli europei. Tra la vita quotidiana e il quadrato, che differenza c'è? Che almeno sul quadrato ci sono le regole. La vita quotidiana non tutti rispettano le regole. L'altra sera ho visto questo programma magnifico, perché è sembra incredibile, ma ogni tanto capita di vedere in televisione delle cose belle. Questo programma si chiama Fino all'ultimo round, ed è un programma che semplicemente ha mandato delle telecamere a seguire i preparativi per i campionati europei e poi mondiali della nazionale italiana di pugilato. Ora, quando uno si immagina una nazionale italiana di qualcosa, si immagina, che so, e qui è un ritiro, si immagina grandi alberghi, posti molto lussuosi, e non è così. La nazionale italiana di pugilato si allena in una palestra di Assisi. Avete presente quelle palestre dove siamo cresciuti alle scuole medie, che sono per lo più grigie, con il linoleum che fa per terra? Il tutto ad Assisi, però nella parte diciamo più industriale della città, non certo dove c'è la basilica di Assisi. Per farvi capire, tutta quanta la nazionale sta in un albergo di Assisi che si chiama Hotel Los Angeles. Così, per farvi capire. E tutto ciò potrebbe sembrare molto triste, e invece è una storia bellissima, perché ci sono questi ragazzi che si allenano per diventare, per fare gli europei di pugilato, e tra loro ci sono i campioni, c'è Cammarelle che è campione olimpico, c'è Russo che è campione mondiale e medaglia d'argento o di bronzo alle Olimpiadi, insomma non ricordo. Quindi ci sono ultracampioni e ragazzi giovani. Se vi capita di vederlo, guardatelo, perché lì ha veramente a che fare con la battaglia. Cioè, queste sono persone che quando si allenano e poi si scontrano, non è che fanno "e adesso la sfida", uno canta Mina e l'altro canta Battiato, no, si prendono proprio ammazzate su un ring. Però poi quando sono in albergo e stanno chiacchierando tra di loro, uno dei due dice, in una delle scene più belle della prima puntata, uno dei due dice all'altro: "tu quando sei sul ring devi solo pensare a come vanno le cose dalle nostre parti", i due sono campani mi pare di fuori Napoli, "devi solo pensare a quanto riscatto noi possiamo avere da quello che facciamo", e l'altro guardando il soffitto gli risponde: "sì, guarda, io quando sono sul ring penso solo al futuro". Se vi capita di vedere questo programma, guardatelo. Ha a che fare con la battaglia e ha a che fare poi con molto altro. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Dai Matteo, hai qualche minuto ancora per convincermi che L'arte della guerra non è solo il libro più diffuso tra i manager convintoni. Martin, guarda Martin, tu hai ragione, infatti questo è il rischio. So che viene molto utilizzato anche dai venditori per simulare queste tecniche di battaglia e paragonarle a quelle della vendita. Credo che quelle però più siano puttanate. Il libro è proprio un bel libro, e ti dico, il macro insegnamento che arriva da questo libro è quello che c'è in finale, che dice: la migliore battaglia è quella che vinciamo senza combattere. La mia lotta, come penso ormai sia quella di tutti, è la lotta con le banche. Ciao Davide, guarda Davide, per questo rimani lì un attimo, che poi arriva Barisoni e alle banche gli fa sempre un mazzo così. Io la mia battaglia l'ho già vinta: comprare casa senza mutuo, da solo, risparmiando dove possibile, e ora sono libero a 39 anni. Grande Mauro. La mia battaglia è dimostrare che essere mamma e lavorare si può. Oggi, come ogni pomeriggio, sono qui sul mio divano a dare il biberon alla mia bambina. Grazie per la compagnia, grazie a te. E poi la mia preferita è: la mia battaglia è non fare diventare comunisti i miei figli. Guarda, succede sempre così: da giovane sei comunisti, poi quella roba li passa, non ti preoccupare. 800 24 0024. Andiamo, aspetta un attimo, andiamo da Andrea a Vicenza. Ti è piaciuta Paolino, che ci ho messo un attimo a scegliere. Pronto Andrea? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, dai, non sei male, te? Io bene. Dimmi qual è subito la tua battaglia, Andrea. Ok, la mia battaglia è una battaglia personale, perché ho avuto dei problemi, diciamo, psichiatrici o una cosa simile, di depressione all'inizio di quest'anno, ma un po' in tutta la mia vita. Quanti anni hai? Io ho 37 anni adesso, okay. E sto organizzando appunto un progetto, una via d'uscita. È una cosa praticamente pari a quella che richiedevi, nel senso che si chiama Pazzo da Viaggiare, è un giro in bicicletta per l'Europa occidentale e il bacino mediterraneo. E quanti chilometri sono, scusami Andrea? Beh, come credo sia impossibile immaginare, è difficile fare un conto dei chilometri. Però grosso modo. Grosso modo, beh, sui 16.000 chilometri. E parti ad aprile? Parto ad aprile del 2011, perciò fra pochi mesi. E quindi ti stai allenando? Beh, diciamo che quello dell'allenamento è una cosa un po' che pecca, anche se quest'estate mi sono allenato parecchio, ma adesso sono perso in mezzo alle cose un po' più burocratiche. Aspetta, però fammi capire Andrea, tu stai partendo ad aprile per il giro del Mediterraneo e non ti stai allenando? Vabbè, non farmi preoccupare. No, non preoccuparti. Okay. Senti, in quanto tempo pensi di portarla a termine? Beh, io credo in un anno, una cosa simile, anche perché mia moglie, visto che sono appunto anche sposato, visto che ho una moglie, è il tempo che mi ha concesso, diciamo. Lo immagino. Senti Andrea, noi probabilmente ad aprile siamo ancora in onda, quindi facciamo che ci sentiamo quando parti, ok? Ma assolutamente sì. Okay. In bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. Prima è arrivato un messaggio che diceva: la mia battaglia è restaurare una battaglia, e non abbiamo capito molto bene, quindi l'abbiamo chiamata. Pronto, Fernanda? Sì, sono io. Ciao, buongiorno. Ciao, ascolto sempre la tua trasmissione, mi fa molta compagnia. Benissimo. Sempre restauri, dipinti. Insomma. Tu che tipo di restauri fai? Restauro dipinti su tela, tavola, antichi, insomma. Ma quindi in un laboratorio oppure vai, certo, dove serve? Sì. Cioè, o vai, no, anche sul posto? Studio, in un laboratorio, sì. Quindi tu sei tra quelle che esalano tutte quelle robe orribili che vi faranno venire dei malesseri? No. Leggevo l'altro giorno che le persone, i restauratori usano questi solventi, queste cose. Sì, certo. Però... sì, però ci siamo anche abituati. Insomma. Brava, invece dimmi cos'è questa battaglia che stai restaurando? È una battaglia del 600, dove si vedono dei cavalieri, forse turchi, contro gli occidentali, forse così. E di chi è questa battaglia? Di chi è questo quadro? Devo togliere tutta la patina, lo sporco del tempo e farla rinascere. Di chi è questo quadro? È un pittore napoletano. No, scusami, ma chi è il proprietario di questo quadro? È un antiquario. Che poi lo rivenderà? Penso di sì. E dove l'ha trovato questo quadro, scusami? Ma credo sul mercato internazionale, cosa così. E quanto ci metterai a chiudere la tua battaglia? È un 20 giorni, penso. Ah, ok. Fernanda, ti lascio la tua battaglia, grazie mille. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Fernanda non se l'aspettava che la chiamassimo. Andiamo a Modena da Maurizio. Pronto, Maurizio? Ciao, salve. Ciao, buongiorno. Maurizio, tu sei uno scrittore? Sì, io sono anche uno scrittore. Si sente perché ho il viva voce, vorrei sentire se si sente. No, sì, credevo se si sente che eri uno scrittore. Devo dire la verità, un po' sì, Maurizio. Da come è attaccato sembrava che la roba si... Buongiorno, sì, ma ho scritto questo libro, ma era un periodo di crisi, ho cominciato a lavorarci. No, è più un'esigenza mia quella di scrivere. Allora, sicuramente questo libro era nato 4 anni fa, sì. Un periodo di crisi, io sono sopravvissuto a una psicanalisi devastante facendo questo lavoro, una psicanalisi personale, sì. E ho scelto di scrivere un libro, contatto l'editore che si dimostra interessato, sì. Libro, casi clinici, do l'anticipo, che i giovani autori, anche se ho 44 anni, non sono più giovane, devono pagare 3.000 euro. Come devono pagare? Per farsi pubblicare, dici? Sì, la prima pubblicazione è sempre a spese proprie, è questa una cosa che pochi dicono. E comincia tutto il tour della promozione nelle varie librerie d'Italia. Quindi sì. Vado dalla Feltrinelli, da Roma, fino a Verona. Sì. Dopodiché il mio editore scompare. Non mi manda più i resoconti, non me ne ha mai mandato uno, non mi manda quanto mi deve dare, non mi manda il mio avere, consapevole che per pochi soldi, perché poi non si tratta di grandi cifre, io piglio l'1% su ogni copia, avrei lasciato cadere la cosa. Invece prendo un avvocato, andiamo per tribunale, passano 3 gradi di giudizio, ho la sentenza in mano, ma lui non risponde più al telefono perché non lo trovo più. Quindi è proprio una battaglia legale. Maurizio, senti, prima di chiudere, dimmi qual è il titolo del libro. Il posto del panico, il tempo dell'angoscia. Grazie mille. Maurizio, ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, grazie. Abbiamo un'ascoltatrice... no, non ce l'abbiamo. Andiamo avanti, tra poco. Abbiamo Umberto da Milano. Pronto, Umberto? Ciao. Ciao, buongiorno. Raccontami della tua battaglia che dura da 13 anni. Sì, 17. Ah, 17. Sì, dal 1993. E quando, da una passione, da un viaggio in Irlanda, sono tornato con l'idea di aprire una scuola di danza irlandese. Una scuola di danza irlandese? Sì. E è stata aperta. E quindi in parte però era ancora un sogno. Ovviamente non era una battaglia, invece si è trasformata dopo in battaglia. Che da una cosa che era solo un sogno, una passione, un divertimento, adesso l'idea è quella, abbiamo 9 sedi, quella di voler lasciare qualcosa per me, ragazzi. Cioè, Umberto, guarda, ti sento male, però in bocca al lupo per la tua battaglia. Chiudiamo perché manca veramente pochissimo. Andiamo da Claudia a Roma. Pronto? Claudia? Ciao! Ciao, sei tu? Sono una bambina di 9 anni, vado all'Iris. Vai dove? È la battaglia che ho io ogni giorno, credo sia quella che tutti i bambini hanno, quella di andare a scuola tra una professoressa antipatica, tutti i compiti. Ma è finta, guarda, non è sono vero. Felicissima. bravissima, sono Giorgi che chiamo, guarda. Ma è vera, ti ascolto ogni pomeriggio, non sei proprio perfetto, guarda. Claudia, aspetta, Claudia, fermati un secondo, ok. Te l'hai riscritta questa cosa o te l'aveva insegnata la mamma? Te l'hai riscritta tutta questa cosa che hai detto oppure ce l'avevi in mente tu o te l'aveva suggerito? No, ce l'avevo in mente proprio. Perfetto, Claudia, dimmi, allora, hai detto che hai 9 anni. Sì. Adesso, per dimostrare che è vero che hai 9 anni, mi dici che cartoni animati guardi alla televisione. Quale? Che cartoni animati guardi alla televisione. Ah, io? Di solito guardo, oddio, per esempio, hai presente Il Mondo di Fatti? No, però direi che va bene così, allora. Senti, un cartone che quasi tutte quelle della mia classe lo guardano. Lo guardano. Dimmi chi è la tua prof più antipatica, quella che proprio non la puoi vedere. Beh. Non si può dire. Oddio mio, guarda. Ma da dove esce? Una professoressa. Sì? La terrai tutto il tempo. Si chiama Nadia. Nadia Sabatucci. No, il cognome no. Claudia, grazie mille. Ciao, alla prossima, stai bene. Ciao Claudia. Ciao. Mi confermate che era vera, non era finta, eh? Nadia Sabatucci. Niente, siamo in ritardo di tipo 2 minuti, credo. Grazie a tutti, grazie a Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Paulino Corleoni e anche grazie a Guido Scotti. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?